Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ente comunale di assistenza di Teramo. Ospedale psichiatrico di Sant'Antonio Abate. Sintomatologia: loquace, instabile, incoerente, stravagante, capricciosa, eccitata, insolente, indocile, bugiarda, impertinente, cattiva. Poi c'era anche prepotente, ma sono tante le categorie che rappresentano una sintomatologia sul quale bisogna intervenire in maniera terapeutica. Immaginate, qualcuno vi prende, vi guarda, vi analizza, vi dice: tu sei loquace, sei anche un po' instabile, incoerente, stravagante, capricciosa, eccitata, come fosse un limite, insolente, indocile, bugiarda, impertinente, cattiva, prepotente, quindi sei malata. Quindi stai male secondo un criterio oggettivo che determina quello che è l'indice di cosiddetta normalità, sei fuori e quindi vai curata. Beh, questo poteva essere un motivo per essere messe in manicomio. A Roma c'è una mostra in questi giorni, fatta dalla Casa della Memoria e della Storia, che si chiama I Fiori del Male, donne in manicomio nel regime fascista. Non ne so nulla, ma mi ha interessato, mi ha incuriosito la storia. Mi ha incuriosito che qualcuno mettesse in mostra alcuni reperti storici per cui degli esseri umani possono essere ricoverati, quindi sottoposti al regime manicomiale, perché avessero delle caratteristiche, perché hanno delle caratteristiche che oggi giudichiamo tutti totalmente normali. Puoi dire, a me mi dicono loquace quando ho avuto il dono della parola, sono instabile, totalmente instabile, nessuno è più instabile di me, sovrascrivo ogni istante il mio pensiero, l'incoerenza poi è la mia chiave di felicità, stravagante, sì, sono stravagante, eccitato, talvolta posso anche esserlo, insolente lo sono molto, indocile totale, bugiardo totale. La bugia è la più alta forma di creatività che io possa conoscere. La mia massima soddisfazione è nel mentire e nell'osservare il risultato della mia menzogna. Impertinente, ma può essere che sia impertinente, cattivo, sì, ma no, non sono cattivo. Oggi l'essere cattivo è diventato un vezzo. Il cattivismo si è sostituito alla epica e gloriosa cattiveria. La crudeltà pura non esiste più, se non nelle pagine giornali, in chi massacra, uccide, in chi fa vessazioni. C'è il vezzo del cattivismo, che è una sorta di vestito fighetto per essere distinti. Quindi non sono cattivo, sono buono. Prepotente, sì, sono anche un po' prepotente. Tutto questo mi causerebbe un ricovero? Non so se sia così, non do per scontata quella che è la ricerca storica fatta dai curatori di questa mostra, però li interrogherò e avrò un parere illuminato per capire cosa debba essere stato considerato patologico nella storia della cura e dell'osservazione della mente umana. Intanto voi preparatevi a farmi il vostro resoconto dei tanti motivi di internamento che saranno citati in questa trasmissione, in quali vi riconoscete. Siete pronti per il manicomio? 800 24 00 24. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita, vi presenta Melog, cronache meridiane. Prepotente, ninfomane, impulsiva, nervosa, erotica, allucinata, irrequieta, ciarliera, irriverente, petulante, maldicente. La carezza del vento, il profumo dei fiori. Avete sentito? Continua l'elenco della sintomatologia atteggiamenti irregolari per cui una donna può essere sottoposta a un regime psichiatrico. Tutto questo va naturalmente inserito in un momento storico o in una fase storica anche della psichiatria, perché lo dico perché molti mi stanno scrivendo dicendo: abbiamo sentito queste categorie, con questo elenco, mi scrive un'ascoltatrice, Nena, dovremmo essere tutte rinchiuse. Poi mi stanno arrivando i messaggi personali: e a me quali bugie hai detto? Sempre, mento anche quando asserisco di essere un menzognero. Anna Carla Valeriano, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a voi. Anna Carla Valeriano è la ricercatrice della Fondazione Università degli Studi di Termo, che ha curato assieme a Costantino Di Sante questa mostra, che ricordo si chiama I Fiori del Male, donne in manicomio nel regime fascista, immagini e documenti sulle donne ricoverate in manicomio durante il periodo fascista. Una mostra che è alla Casa della Memoria della Storia a Roma dal 14 settembre al 18 novembre, così ho dato il contesto. Allora, dottoressa, mi spiega esattamente di cosa si tratta. Voi avete fatto una ricerca storica, avete trovato dei documenti per cui esistono queste schede di sintomatologia per cui le persone venivano considerate matte, in sintesi? Sì, allora la mostra attinge a un archivio storico ricchissimo ed è l'archivio storico del manicomio Sant'Antonio Abate di Teramo. Custodisce all'incirca 22.000 cartelle cliniche che sono state prodotte dal 1881, l'anno in cui... Ma era un pio istituto, era tenuto da religiosi? Era inizialmente un pio istituto, nasce nel 1823 come pio istituto, come istituto di beneficenza, poi nel 1881 viene aperta all'interno dell'ospedale civile Sant'Antonio Abate la prima sezione maniaci, dedicata proprio alla cura e alla custodia, purtroppo, di coloro che sono affetti da alienazione mentale. E da lì inizia proprio la storia istituzionale di uno dei luoghi che poi hanno segnato di fatto l'identità culturale del territorio abruzzese, ma non solo, perché il manicomio di Teramo storicamente ha accolto devianti da tutta Italia, nello specifico ha accolto anche donne durante gli anni del regime fascista, e su queste donne sono state applicati metodi terapeutici e categorie notografiche particolari come quelle che ricordava l'epoca. Allora, queste categorie che ho fatto leggere e spiccherare perché mi interessava, perché in realtà sono delle normali maniere dell'essere con le persone con cui tutti i giorni noi abbiamo dei rapporti, dire capricciosa può essere considerato patologico. Ma in quel caso erano considerate delle patologie vere e proprie? Allora, consideri questo, che l'elenco dei termini che lei ha appena recitato è un elenco che attinge ai diari clinici. I diari clinici sostanzialmente erano redatti da uomini, perché la classe medica psichiatrica all'epoca era esclusivamente maschile, tranne rarissime eccezioni, che osservavano i corpi femminili e nella maggior parte dei casi ai loro occhi si presentavano corpi femminili scomposti. Quindi era la scompostezza di corpi che non rispondevano più alla norma a determinare descrizioni che accentuavano questa irregolarità e questa esuberanza. Quindi diciamo, somiglia molto il tipo di metodo all'osservazione che facevano i dottori dell'Inquisizione nel cercare nel corpo della strega il segno della contaminazione diabolica. Ferma un attimo, Stefania da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è stata internata? Ah, salve, sì. No, io volevo portare una testimonianza però del dopoguerra, del dopofascismo. Io provengo da una famiglia di origine ebraica e mia zia, che all'epoca era stata, avevano deciso di darla in sposa al cugino, e si innamorò invece di un ragazzo di religione cattolica. E niente, per tutta risposta della famiglia fu internata per 2 anni. Ma in che anno questo? E allora consideri il mio più o meno intorno al 55. Cioè nel 55 internavano una persona per un affetto di religione diversa, ma dove? In quale ospedale? Guardi, l'ospedale non lo so, però so che è tutto vero. Consideri che lei si è resa dopo un paio d'anni e ha deciso di sposare quello che avevano. Sì, ma è un'operazione, diciamo, un'imposizione truffaldina nel 55, una persona. Esatto, infatti io pensando a quando hanno chiuso i manicomi, tutto sommato con questa testimonianza non a me è dispiaciuta la cosa, perché come andavano le cose purtroppo. Evidentemente i suoi familiari avevano modo di operare in maniera impropria, perché non c'è molto di patologico nello scegliere una persona di religione diversa. Fermiamoci un attimo. Beppe Neri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Giuseppe Neri è un neuropsichiatra e past president della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Ti ho tenuto, come sempre faccio, in silenzio finora per darmi dei lumi innanzitutto sulla ricerca storica e poi su quest'ultimo episodio di questa signora Stefania. È plausibile che negli anni 50? Sì. Allora, la ricerca storica è estremamente interessante, e questo patrimonio di 22.000 cartelle sicuramente è un tesoro dal punto di vista della ricerca in questo campo. La legge che ha regolato tutto questo campo è una legge del 1904 che non è stata cambiata fino alla fine degli anni 70, con la famosa legge 180. Quindi valevano fino alla 180? Valevano i criteri che conosciamo tutti, delle persone che erano pericolose per sé e agli altri o, tra virgolette, davano pubblico scandalo. Il cuore del problema qual era? Io distinguerei da adesso in poi almeno la situazione della patologia psichiatrica, cioè persone con problemi importanti che c'erano nell'Ottocento, c'erano con la vecchia legge, ci sono oggi, e le risposte che la società dà. Allora, la risposta manicomiale aveva una serie di criticità molto pesanti, tra cui la facilità con cui, fino a tutti gli anni 50, con una segnalazione del medico di famiglia, medico condotto e un provvedimento adottato dal sindaco, si poteva limitare la libertà di una persona ricoverandola in ospedale psichiatrico contro la sua volontà, quello che oggi chiamiamo trattamento sanitario obbligatorio, perché si sosteneva che potesse essere pericolosa per se stessa o per gli altri. Quindi ci stava tutta la famiglia che fa interdare la figlia perché non accetta di sposare il cugino con della stessa religione. Allora, occorre dire che in queste circostanze il ruolo della professione a cui appartengo, cioè dei medici, non era secondario, perché dal punto di vista deontologico certificare una condizione che non risponde alla verità non era assolutamente un comportamento né corretto né plausibile, però era in un certo contesto storico e sociale assolutamente non raro. Beh, oggi che si parla tanto del fenomeno dei falsi invalidi, dietro ogni falso invalido c'è comunque un medico che ha certificato con l'invalidità, quindi non siamo una commissione umani. una commissione. Mario da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ma devo dire che per certi aspetti può essere valida anche oggi la cosa. Cioè, da un punto di vista sintomatologico, certe cose potrebbero essere valide anche adesso, perché secondo una definizione... Ma valide come motivazione per essere internati o per essere sottoposti a un trattamento sanitario obbligatorio, lei dice? Dipende. Se certo comportamento, certa sintomatologia... E ti impedisce, dice la definizione, di è una limitazione delle capacità di occuparsi delle proprie attività di vita, nel prendersi cura di sé e nell'autoconservarsi o nei ruoli richiesti dalla famiglia o dalla società. Le faccio un esempio, devi spiegare meglio. Allora, petulante, il termine petulante. Una persona ride sempre, petulante. Ride sempre, ci sono delle manifestazioni patologiche in una risata compulsiva, una persona che ride, una persona che mette allegria. Giuseppe Neri. No, non so se il nostro ascoltatore si riferisce alle procedure che la legge prevede per la interdizione di un soggetto o alla condizione per cui il medico propone un trattamento sanitario obbligatorio. Sarei un pochino perplesso se alcune di queste situazioni che lei ha descritto portassero al TSO. Invece posso capire, con un approfondimento molto analitico e accurato, che una situazione di un certo tipo, con le caratteristiche che lei ha descritto, possa indurre qualcuno in famiglia a chiedere al magistrato di fare operare una valutazione circa la capacità di questa persona di svolgere... Entriamo nell'uso improprio delle vessazioni familiari per sostenere, contenere, allontanare o fermare. Allora, torniamo a Anna Carla Valeriano, visto che abbiamo allargato il contesto. Mi racconti qualche storia, qualche esempio per far capire quello che succedeva. Ricordo che Mussolini aveva una prima moglie che finì in manicomio, poi, quindi evidentemente usava questo sistema di allontanarsi le persone non proprio in linea con i propri desideri, mettendole in manicomio. Sì, allora le storie sono infinite, la storia che raccontava l'ascoltatrice non mi stupisce, perché io ho trovato tantissime cartelle cliniche anche precedenti al periodo fascista, perché ricordiamo una cosa, che il regime accentua dei meccanismi di controllo della devianza che sono già presenti nella società. Infatti l'ha detto Beppe Neri, risale è ottocentesca la lettura. La legge del 1904. Per il esatto, la legge del 1904. Consideriamo che il ministro Mariotti, quando nel 68 poi uscirà la prima legge Mariotti, pochi anni prima nel 65 aveva denunciato i manicomi come luoghi vergognosi, quindi noi dobbiamo presupporre che almeno fino al 65 i manicomi sono stati dei luoghi di custodia sociale, un serbatoio in cui venivano sostanzialmente buttati tutti gli scarti e tutti coloro che improduttivi, fuori dai ruoli, potevano in qualche modo andare a spostare. Non sei d'accordo? Suonate, perché il neurologo ospedaliero non è molto d'accordo. No. Questa è la lettura della storica. No, appunto, la lettura della storica che rispetto moltissimo e che fotografa una parte della realtà. Bisogna, secondo me, tener conto che, per quanto inadeguati e con grossissime criticità, i manicomi o gli ospedali psichiatrici provinciali italiani fino alla legge 180 avevano una situazione a pelle di leopardo, per cui il Paolo Pini di Milano era un po' diverso dall'ospedale di Girifalco o da quello di Barcellona Pozzo di Gotto. All'interno di questo, persone che avevano patologie gravi venivano fino agli anni 50 curati con strumenti molto approssimativi, dalla terapia insulinica all'elettroshock alla malarioterapia. Poi con gli anni 50 e con l'introduzione dei neurolettici si utilizzò un sistema farmacologicamente più appropriato che riuscì a contenere parecchio questi problemi. Allora, che i manicomi fossero, a detta di Mariotti, in larga misura nel 65, dei posti spregevoli per la cura delle persone può essere vero, ma non lo erano sempre nella stessa misura, e soprattutto era l'unica risposta che per patologie gravi e croniche, sottolineo croniche, in quel momento si riusciva. Non c'è una maniera per far fare una vita decorosa e decente a persone con delle patologie se non metterle dentro. Questo è un dato di fatto dolorosissimo, ma grazie a Dio almeno a questo punto di vista ci siamo evoluti. Ci fermiamo soltanto un istante, Anna Carla Valeriano, poi continuiamo con lei. Si prepara a raccontarmi qualche storia. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Melog, cronache meridiane. Irosa, piacente, smorfiosa, irritabile, clamorosa, minacciosa, rossa in viso, esibizionista, menzognera, dedita all'ozio, civettuola. Questo è il diario clinico con tutte le sintomatologie che permettevano che una donna fosse internata, o perlomeno fosse sottratta alla sua famiglia, alla sua vita, in un periodo che probabilmente è lontano, ma vale la pena di ricordarlo perché c'è una mostra a Roma, alla Casa della Memoria e della Storia, intitolata I Fiori del Male, donne in manicomio del regime fascista. Stiamo parlando con la ricercatrice che ha curato questa mostra, ma prima vorrei sentire Valeria da Vicenza. Valeria, buongiorno. Sì, buongiorno. In quale di questi sintomi lei si riconosce o si è riconosciuta? No, guardi, io ne aggiungerei un altro. Sportiva. Sportiva. Lei è una donna sportiva? Sì. Lo sai, c'è un'accezione anche un po' lubrica. La donna sportiva è quella di coscia svelta, nella terminologia più biecamente maschilista. Ci si ritrova anche... Si ritrova anche, sì. Anche in questo si ritrova? Ma insomma... Vabbè, non bene. Tanto. Giustamente, sennò l'avrebbero internata. Allora, racconti la sua storia. Allora, premetto, io ho 66 anni. Dunque, quando ero bambina, di norma, si andava in colonia. Anni 60, più o meno. 62 era questo. Va bene, perfetto. Per la precisione. Perché era l'ultimo anno, avevo 12 anni, e quell'anno i miei genitori mi hanno mandato, anziché al mare, in montagna, dove c'erano le suore. In colonia dalle monache, bellissimo. Dalle monache. Andava prima in quegli invece, anni. No, ma prima al mare non c'erano le monache. Il fatto è successo con le monache. Ma era una punizione, come mai l'hanno così declassata rispetto al piacere? Appunto, perché la mia passione a quel tempo era giocare a calcio in porta. La portiera. E quindi per allontanarla dal rischio di una mutazione gender l'hanno mandata dalle suore. Che è come dire mandare una volpe nel pollaio. Sì, no, ma i miei genitori da questo punto di vista erano bravissimi. Certo. Penso un po' se cosa non era è successo? Che io in colonia, la colonia era divisa da un muretto maschi e femmine, perché i giochi dovevano essere diversi. E coi maschi ci stava i frati? No, c'erano sempre le suore, però c'era anche un prete. Certo. Ecco, io cosa ho fatto? Ho scavalcato il muretto e mi sono messa a giocare con loro e mi sono messa in porta. A questo punto, ovviamente, è scattata la punizione. L'hanno beccata le suore che stava in porta? Beh, io non ho fatto niente per non farmi beccare. La sua era una provocazione, voleva far vedere che lei aveva questa libertà. Quasi. Cosa hanno fatto? La punizione in lavanderia, non più col gruppo di ragazzine e bambine, ma neanche quello, in lavanderia a lavare. Come nel film Madeleine, non so, se, quello che ha vinto la mostra di Venezia dieci anni fa. E lì c'era una cosa brutta e poi se le faceva il prete le ragazzine in quel film. Ecco, no, da me per fortuna c'è stata solo la lavanderia. Sì, però la lavanderia, lei lo capisce, è una legge del contrappasso. I lavori forzati, Beh, era un contrappasso. Tu che hai così impunemente sfidato il tuo ruolo di donna, vai a lavare i panni così capisci cosa devi fare come donna. Sì, proprio. Beh, poco a che fare col manicomio, comunque a che fare con l'irregolarità che comunque è degna di essere punita. Allora, Anna Carla Valeriano, invece da lei mi aspetto qualche storia in più per capire meglio il contesto. Vede, arrivano dei barlumi di tentativi di regolarizzare. Quanto era forte nei casi che lei ha analizzato nella sua mostra il tentativo di violentemente regolarizzare comportamenti irregolari? Allora, il manicomio doveva assolvere soprattutto questo, la società chiedeva di regolarizzare le condotte irregolari, nel caso delle donne diciamo che questa richiesta si faceva più stringente. Io ho collezionato davvero tante storie, ve ne provo a raccontare qualcuna. C'è la storia di Maria Isabella, è una storia precedente al regime fascista. Maria Isabella è una contadina abruzzese, nel questionario medico redatto dal medico condotto che poi invierà Maria Isabella in manicomio, il medico appunta che prima del matrimonio questa donna usava girovagare per le campagne concedendosi a ignobili satiri. Dopodiché quindi cos'era? L'infomania? Non è ben specificato, però si parla di una rilassatezza morale di questa donna. Questa donna poi si sposa, ha una vita matrimoniale regolare. Sappiamo che il marito insieme alla moglie emigrano nell'Agropontino, il marito muore, Maria Isabella rimane vedova, torna al paese di origine, i familiari la mandano in manicomio. Sul questionario medico c'è scritto che appunto la donna viene inviata in manicomio per i costumi sessuali precedenti al matrimonio, e quindi qui vediamo come venga applicata pedissequamente la categoria del pubblico scandalo in maniera retroattiva. Poi di solito in maniera retroattiva il matrimonio di solito funge da elemento catartico, esatto, da normalizzante, perché invece la famiglia non perdona questo. E nel questionario del medico condotto si legge che la donna viene inviata in manicomio non prima di essere stata sottoposta a digiuno, capestro e flagello dai restauratori della pubblica morale. Flagello in che anno? Qui siamo nel 1902-1903, se non... Giuseppe Neri, nel 1902 si flagellava una donna in quanto si era concessa, cioè sarà fatta qualche trombata prima di sposarsi alla fine. Questo sì, ma questo è quel territorio di confine in cui le competenze sono assolutamente in sovrapposizione e in maniera secondo me inappropriata, cioè il territorio secondo me della dottoressa Valeriano, perché è un problema storico-sociologico, nulla a che fare con la patologia psichiatrica. Però sono documenti che parlano. No, voglio dire, questo era il grande handicap, questa commistione fra i disturbi del pensiero e del comportamento e il pubblico scandalo che la legge del 1904 metteva insieme come strumento per la segregazione di chi a qualsiasi motivo dava pubblico scandalo. Il manicomio è stato uno strumento usato anche a fini politici. Non a caso il fascismo e il regime dell'URSS, da Stalin fino ad Andropov, hanno usato il manicomio giudiziario come strumento per la dissidenza, per la repressione della dissidenza. Ma siamo in un campo che di medico e di psichiatrico non ha nulla se non l'etichetta. Allora, lei ha capito, dottoressa Valeriano, il neuropsichiatra difende comunque la sua scienza. Però diciamo che era una legge che presentava un'ambiguità di fondo. No, era una legge totale. Che presentava ambiguità, ma soprattutto c'era appunto la tendenza molte volte a usarla come uno voleva. Il disturbo mentale, lo squilibrio mentale all'essere fuori dai ruoli. Nel caso delle donne questa cosa è evidentissima. Me ne racconti un'altra di storia, che sono bellissime. C'è la storia, ad esempio, di Paolina. La diagnosi di Paolina, quindi parliamo di una diagnosi che compare in Castella Clinica, adesso è una diagnosi che noi grideremmo allo scandalo. Però Paolina viene internata con la diagnosi di immoralità costituzionale. Allora, di psichiatrico anche questa diagnosi non ha nulla, perché si attinge alla sfera della morale. Certo. Però, ecco, molto giusto. Paolina viene, e cosa aveva fatto? Che aveva fatto Paolina? A Paolina piacevano le altre donne, quindi era lesbica. Allora era considerata veramente al tempo una patologia questa proprio, no? Un disturbo della del forte. Assolutamente sì. Qualcuno lo pensa ancora oggi? Probabilmente sì. Paolina è una delle pazienti più lucide con cui io mi sono incontrata nel corso dello spoglio di queste cartelle cliniche, perché lei scriverà in manicomio una serie di lettere strazianti indirizzate a una donna che lei aveva incontrato in manicomio, di cui si innamorerà. Era il suo amore, certo. Era il verso amore, ovviamente la lettera viene subito sequestrata dalla direzione medica e allegata in cartella clinica, quindi paradossalmente poi la censura che voleva annullare le parole e le identità di queste persone ci ha consentito oggi di rileggere per la prima volta queste parole, e lei scriverà eppure anche in questo carcere un pallido raggio di gioia filtro attraverso un'amarezza e un dolore impareggiabile a ogni altro dolore. Cosa è mai tutto questo? È una domanda purtroppo che rimane senza risposta. Beh, è fantastico questo ritrovamento, perché diciamo l'amore tra persone dello stesso sesso si è dissimulato in chiave poetica, in chiave letteraria, in chiave simbolica, è stato fortemente accettato e discusso. Poi quando una persona reale, concreta, amava un'altra persona dello stesso sesso, improvvisamente veniva presa e reclusa, internata. Oggi non accade esattamente la stessa cosa, ma c'è in alcune fasce della nostra società un terrore tale di fronte a questa espressione dell'umanità che non si reclude, ma si vuol tenere comunque isolata in una parte a sé della società. Ci fermiamo un istante e riprendiamo tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo parlando di epoche in cui avere dei comportamenti che vengono giudicati irregolari o pericolosi per la compattezza della società e veniva determinato come elemento di tale per essere internati. E di questo stiamo parlando con Anna Carla Valeriano, che è una ricercatrice, ha fatto proprio un'analisi storica su una documentazione presa da un manicomio, a tutti gli effetti un manicomio, in cui erano internate anche molte donne. Mi racconta un'altra storia, Anna Carla? Sì, un'altra storia invece è proprio degli anni del regime. Siamo nel 42, siamo a Pescara. Io adesso il nome della ricoverata non lo ricordo perché ne ho visti davvero tanti, però è una ragazza che in quegli anni sta lavorando in una fabbrica di proiettili. Ovviamente tutta la produzione nazionale si è riconvertita in produzione bellica, lavora in questa fabbrica di proiettili e viene internata in manicomio con la diagnosi di mania acuta, perché ci sono poi una serie di lettere tra la direzione medica e la famiglia di questa ragazza che aiutano poi a ricostruire la sua vicenda. Questa ragazza sostanzialmente, finito il turno di lavoro, non si ritira a casa, preferisce uscire e andare a passeggiare. Allora il padre scrive una serie di lettere al direttore del manicomio in cui motiva la ragione per cui questa ragazza non dovrà uscire, perlomeno insomma nel breve periodo, dal manicomio. Scrive che questa donna ha svergognato la casa, a causa sua un fratello che voleva entrare in guardia di finanza non era riuscito a entrare nel corpo. Scrive una frase emblematica che recita sostanzialmente così: la prima volta si perdona, la seconda si bastona, e alla fine conclude la lettera dicendo non dateci più notizie di questa ragazza, perché noi non la vogliamo più sentire, per noi essa non esiste più. Beh, è terribile, lo sai perché è terribile questa cosa qua? Perché oggi che noi guardiamo con giusto, motivato, oggettivo orrore che nasce dal nostro sentirsi civilizzati, certi comportamenti che vengono appunto dalle zone che consideriamo che più incivilmente trattano la parte femminile della popolazione, le donne vengono lapidate, le donne vengono isolate, vengono frustate, vengono messe alla stregua delle peggiori parti della nostra natura bestiale, ci rendiamo conto che qualche decennio fa accadeva nelle stesse cose. Come un padre che vediamo in un filmato, propaganda dell'ISIS, consegna la moglie o la figlia ai guardiani della rivoluzione perché la lapidino, perché era uscita dalla regola, un padre consegnava la figlia al manicomio perché gliela togliessero di torno perché usciva la sera. Giuseppe Neri. Sì, sì, è la base della critica fondata che portò poi a tutto lo sviluppo di pensiero che diede origine alla legge 180 sul manicomio come istituzione totale, come luogo di segregazione e come contenitore per tutti coloro i quali erano socialmente sgrediti. Io mi ricordo che mia madre mi diceva da piccolo: ti mandiamo al correzionale, ero bambino, che esattamente era il manicomio dei ragazzini. C'era questa idea che se non andavi per la strada dritta finivi in manicomio. Sì, esistevano delle forme intermedie di istituti di neuropsichiatria infantile per ragazzini con problemi di comportamento. Mandiamo al correzionale. Io spaventato, chi sarà mai correzionale? Poi vedete, c'era dell'aria. Se non righi dritto vai a finire al manicomio. Andrea da Parma, buongiorno. Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Io volevo portare la testimonianza di una ricerca che ho fatto sul manicomio di Colorno. Sì. E, volevo dire appunto di una specie di internamento di tipo un po' paradossale. Era una persona affetta da mania religiosa, maniaca religiosa, praticamente pregava tutti i giorni e disturbava il vicinato, perché aprendo le porte lui pregava. E il vicinato fece richieste di internamento e una sera, tornando dal Duomo di Parma, passando su un ponte, i poliziotti, cioè per la precisione i vigili, allora i vigili urbani, col carretto, prima si hanno cercato informazioni se aveva parenti, se aveva cose. Ma dove pregava? Dentro casa questa persona? Pregava dentro casa e andava tutti i giorni a pregare in Duomo, pregava anche alle 4 di mattina, 5 di mattina, 6 di mattina, per cui con le finestre aperte, per cui il vicinato si era. Era nata nell'epoca sbagliata, oggi sarebbe una star di Radio Maria e quindi avrebbe un ruolo nella società. E cosa hanno fatto col carretto? L'hanno portata niente, via? Niente, col carretto l'hanno raggiunta e, di notte, di sera, mentre lei tornava dalla sua orazione, sì, che, giornaliera, che facendo uomo, l'hanno rapita, praticamente sono scesi, l'hanno caricata sul carretto a forza, sì, e l'hanno portata al manicomio di Colorno, per cui è stato proprio un rapimento, visto che non aveva parenti. Strano che nessuno abbia intentato una causa di beatificazione, perché tutto sommato è una martire della sua fede religiosa. Antonio da Bologna. Buongiorno, io penso una cosa, che la malattia della donna sia più mentale della donna sia più un problema dell'uomo. È l'uomo che teme, secondo me, non solo l'intelligenza, ma anche la potenza multiorgasmica della donna. Perché la teme? Perché la teme? La teme perché è un divertimento, è come invidioso e ha paura della libertà della donna. Nel Medioevo le chiamavano streghe, oggi le chiamano malate mentali. Quindi la capacità multiorgasmica, che poi l'avrà letto in qualche libro, perché tutta sta multiorgasmica in 60 anni non è che se ne incontra tanta. Comunque mi fa piacere questa lettura. Giuseppe Neri. No, io tornerei all'argomento che la sì, è interessante, è il punto vero, no, di questa missione. È un patrimonio che apre uno squarcio su un pezzo di storia della psichiatria nel nostro paese, che è stata oggetto di tante ricerche, e penso che queste cartelle siano estremamente interessanti. Quello che vorrei soltanto è la ricaduta sociale di un problema che doveva essere clinico. Quello che vorrei soltanto lasciare lì, insomma, per una prossima riflessione, è che il problema vero di pazienti con patologie psichiatriche gravi, parlo di psicosi, parlo di malattie che durano per tutta la vita, c'era nell'Ottocento e ce l'abbiamo ancora oggi. Oggi non abbiamo più i manicomi, ma qualche volta chiediamo alle madri, alle mogli, ai padri di pazienti psicotici gravi che risposta oggi hanno le famiglie rispetto a persone che hanno una malattia che, nonostante i farmaci che utilizziamo adesso, dura tutta la vita e perturba l'equilibrio di questa persona e della sua famiglia per tutta la vita. Perché forse le risposte che abbiamo adesso non sono più il manicomio, ma non so se sono quelle più efficaci. Poi ti faccio una domanda, che mancano pochi secondi. Scusami, ma quando finisce la famiglia e rimane la persona perturbata, ammesso che sia giovane, cosa succede oggi? Succede che è oggetto di iniziative da parte della ASL, del Centro di Salute Mentale, che vanno avanti comunque perché ci sono delle condizioni che richiedono dei provvedimenti sanitari. Chissà, Anna Carla Valeriano, quando tra 20, 30, 40 anni lei andrà a scartabellare, o chi per lei, le carte nelle nostre ASL, quante storie andrà a raccontare, perché poi in fondo cambia la percezione del trattamento barbaro. Io sono convinto che tutto quello che ha detto nell'epoca in cui si è prodotto era totalmente normale. Non ha avuto anche lei questa idea? Ma probabilmente più che normale era concepito come una regola necessaria, ecco, il manicomio come regola necessaria, come meccanismo normalizzatore necessario. Quindi questa è stata l'impressione che io ho avuto, una società quasi, non dico indifferente, però assuefatta a certi meccanismi di esclusione, questo sì. E il pericolo è sempre in agguato che si possa ripetere, ecco, il pregiudizio c'è ancora adesso nei confronti delle persone affette da patologie mentali vere. Si guarda la malattia mentale come una malattia diversa rispetto, non so, a una gastroenterite o una bronchite. È una malattia seria a tutti gli effetti che va curata, non ci può essere pregiudizio. Io aggiungo che molte volte è anche un modo d'essere. La neurodiversità non è sempre una malattia, ma è un punto diverso sulla realtà. Mi sento molto neurodiverso rispetto alla norma, anche quella che spesso mi ascolta, e non solo mi ascolta la radio. Alla prossima.